Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Manuela Mandracchia legge Il barone rampante di Italo Calvino. La sinforosa. A poco, dai discorsi della Drunconi, Cosimo apprese molte cose sul conto di questo personaggio. Con quel nome si chiamavano una ragazzina delle ville che girava su di un cavallino nano bianco ed era entrata in amicizia con loro straccioni e per un certo tempo li aveva protetti e anche, per potente com'era, comandati. Correva sul cavallino bianco, le strade e i sentieri e quando vedeva frutta matura e infrutteti incustoditi li avvertiva e accompagnava i loro assalti da cavallo come un ufficiale. Portava appeso al collo un corno da caccia. Mentre loro saccheggiavano mandorli o peri, incrociava sul cavallino su e giù per le costiere, donde si dominava la campagna, e appena vedeva movimenti sospetti di padroni o contadini che potevano scoprire i ladri e piombar loro addosso, dava fiato al corno. A quel suono i monelli saltavano dagli alberi e correvano via. Così non erano stati mai sorpresi, finché la bambina era rimasta con loro. Cosa fosse successo poi era più difficile da capire. Quel tradimento che Sinforosa aveva commesso ai loro danni. Un po' pareva fosse l'averli attirati nella sua villa a mangiar frutta e poi fatti bastonare dai servi. Un po' pareva fosse l'aver prediletto uno di loro, un certo bello re, che per questo veniva ancora canzonato, e nello stesso tempo un altro, un certo Ugasso, e averli messi l'uno contro l'altro, e che appunto quella bastonatura dei servi non fosse stata in occasione d'un furto di frutta, ma d'una spedizione dei due beniamini gelosi che si erano finalmente alleati contro di lei. Oppure si parlava anche di certe torte che lei aveva promesso a loro, ripetute volte e finalmente dato, ma condite d'olio di ricino, per cui erano stati a torcersi la pancia per una settimana. Qualche episodio di questi, o sul tipo di questi, oppure tutti questi episodi insieme, avevano fatto sì che tra Sinforosa e la banda ci fosse stata una rottura. Ed essi ora parlavano di lei con rancore, ma insieme con rimpianto. Cosimo ascoltava queste cose tutto orecchi, assentendo come se ogni particolare si ricomponesse in un'immagine a lui nota, e alla fine si decise a chiedere: «Ma in che villa sta questa Sinforosa?» «Ma come? Vuoi dire che non la conosci? Se siete vicini, la Sinforosa della villa d'Ondariva!» Cosimo non aveva certo bisogno di quella conferma per essere sicuro che l'amica dei vagabondi era Viola, la bambina dell'altalena. Era, io credo, proprio perché lei gli aveva detto di conoscere tutti i ladri di frutta dei dintorni che lui s'era messo subito in cerca della banda. Pure da quel momento la smania che lo muoveva, seppur sempre indeterminata, si fece più acuta. Avrebbe voluto ora guidare la banda a saccheggiare le piante della villa d'Ondariva, ora mettersi al servizio di lei contro di loro, magari prima incitandole ad andare a darle noia per poi poterla difendere, ora far bravure che indirettamente le giungessero all'orecchio. E in mezzo a questi propositi seguiva sempre più straccamente la banda. E quando loro scendevano dagli alberi, lui restava solo e un velo di malinconia passava sul suo viso, come le nuvole passano sul sole. Poi scattava d'improvviso e svelto come un gatto s'arrampicava per i rami e trascorreva su frutteti e giardini, canterellando tra i denti chissà che, un canterellare nervoso, quasi muto, gli occhi fissi in avanti che pareva non vedessero niente, e lui si tenesse in equilibrio per istinto, proprio come i gatti. Così invasato vedemmo Cosimo diverse volte passare sui rami del nostro giardino. «È là! È là!» scoppiavamo a gridare, perché ancora, qualunque cosa cercassimo di fare, era sempre lui il nostro pensiero, e contavamo le ore, i giorni che lui era sugli alberi, e nostro padre diceva «è matto, è indemoniato», e se la pigliava con l'abate Fauchelevent. «Non c'è che esorcizzarlo. Che aspettate voi? Dico a voi, l'abbé, cosa state lì con le mani in mano? Ha il demonio in corpo, mio figlio, capite? Sacré nom de Dieu!» L'abate pareva riscuotersi tutto un tratto. La parola demonio pareva risvegliargli in mente una precisa concatenazione di pensieri e iniziava un discorso teologico molto complicato su come andasse rettamente intesa la presenza del demonio e non si capiva se volesse contraddire mio padre o parlare così in generale. Insomma, non si pronunciava sul fatto se una relazione tra il demonio e mio fratello fosse da reputarsi possibile o da escludersi a priori. Il barone si spazientiva, l'abate perdeva il filo, io m'ero già annoiato. E nostra madre, invece, lo stato d'ansietà materna, da sentimento fluido che sovrasta tutto, s'era consolidato, come lei dopo un po' tendeva a fare ogni sentimento, in decisioni pratiche e ricerche di strumenti adatti, come devono risolversi appunto le preoccupazioni d'un generale. Aveva scovato un cannocchiale da campagna, lungo, col treppiede, ci applicava l'occhio e così passava le ore sulla terrazza della villa, regolando continuamente le lenti per tenere a fuoco il ragazzo in mezzo al fogliame, anche quando noi avremmo giurato che era fuori raggio. «Lo vedi ancora?» le chiedeva dal giardino nostro padre, che andava avanti e indietro sotto gli alberi e non riusciva a scorgere mai Cosimo se non quando l'aveva proprio sulla testa. La generalessa faceva cenno di sì e insieme di star zitti, che non la disturbassimo, come seguisse movimenti di truppe su un'altura. Era chiaro che a volte non lo vedeva per nulla, ma s'era fatta l'idea, chissà perché, che dovesse rispuntare in quel dato posto e non altrove, e ci teneva puntato il cannocchiale. Ogni tanto tra sé e sé doveva pure ammettere d'essersi sbagliata, e allora staccava l'occhio dalla lente e si metteva a esaminare una mappa catastale che teneva aperta sulle ginocchia, con una mano ferma sulla bocca in atteggiamento pensoso, e l'altra che seguiva i geroglifici della carta finché non stabiliva il punto in cui suo figlio doveva essere giunto. E calcolata l'angolazione, puntava il cannocchiale su una qualsiasi cima d'albero in quel mare di foglie, metteva lentamente a fuoco le lenti, e da come le appariva sulle labbra un trepido sorriso, capivamo che l'aveva visto, che lui era lì davvero. Allora la generalessa poneva mano a certe bandierine colorate che aveva accanto allo sgabello e ne sventolava una e poi l'altra, con movimenti decisi, ritmati, come messaggi in un linguaggio convenzionale. Io ne provai un certo dispetto perché non sapevo che nostra madre possedesse quelle bandierine e le sapesse maneggiare. E certo sarebbe stato bello se ci avesse insegnato a giocare con lei alle bandierine, soprattutto prima, quando eravamo tutti e due più piccoli. Ma nostra madre non faceva mai nulla per gioco e adesso non c'era più da sperare. Devo dire che con tutta la sua attrezzatura da battaglia rimaneva pur sempre madre lo stesso, col cuore stretto in gola e il fazzoletto appallottolato in mano. Però si sarebbe detto che fare la generalessa la riposasse o che vivere questa apprensione in veste da generalessa anziché di semplice madre le impedisse d'esserne straziata, proprio perché era una donnina delicata che per unica difesa aveva quello stile militare ereditato dai von Kurtewitz. Era lì che agitava una di quelle sue banderuole guardando nel cannocchiale ed ecco che si illumina tutta in viso e ride. Capimmo che Cosimo le aveva risposto. Come non so, forse sventolando il cappello o facendo svettare un ramo. Certo che da allora nostra madre cambiò. Non ebbe più l'apprensione di prima. E seppure il suo destino di madre fu così diverso da quello d'ogni altra, con un figlio così strano e perduto la consueta vita degli affetti, lei questa stranezza di Cosimo finì per accettarla prima di tutti noi. Come fosse paga ora di quei saluti che di là in poi ogni tanto imprevedibilmente le mandava, di quei silenziosi messaggi che si scambiavano. Il curioso fu che nostra madre non si fece alcuna illusione che Cosimo, avendole mandato un saluto, si disponesse a metter fine alla sua fuga e a tornare tra noi. In questo stato d'animo, invece, viveva perpetuamente nostro padre e ogni pur minima novità che riguardasse Cosimo lo faceva almanaccare. «Ah sì? Avete visto? Tornerà!» Ma nostra madre, la più lontana da lui, forse, pareva la sola che riuscisse ad accettarlo com'era, forse perché non tentava di darsene una spiegazione. Ma torniamo a quel giorno. Dietro a nostra madre fece capolino un momento pure Battista, che non s'affacciava quasi mai, e con aria soave protendeva un piatto, con certa pappa, e alzava un cucchiaino. «Cosimo, vuoi?» Si prese uno schiaffo da suo padre e tornò in casa. Chissà quale mostruosa poltiglia aveva preparato. Nostro fratello era scomparso. Io smaniavo di seguirlo, soprattutto adesso che lo sapevo partecipe alle imprese di quella banda di piccoli pezzenti, e mi pareva che m'avesse aperto le porte d'un regno nuovo, da guardare non più con porosa diffidenza, ma con solidale entusiasmo. Facevo la spola tra la terrazza e un abbaino alto, da dove potevo spaziare sulle chiome degli alberi, e di là, più con l'udito che con la vista, seguivo gli scoppi di gazzarra della banda per gli orti. Vedevo le cime dei ciliegi agitarsi, ogni tanto affiorarne una mano che tastava e strappava, una testa spettinata o incappucciata in un sacco. E tra le voci sentivo anche quella di Cosimo e mi chiedevo: «Ma come fa a essere laggiù? Ora è poco, era qui nel parco. Va già più svetto d'uno scoiattolo». Erano sui rossi susini sopra la vasca grande, ricordo, quando si sentì il corno. Anch'io lo udii, ma non ci feci caso, non sapendo cos'era. Ma loro! Mio fratello mi raccontò che restarono ammutoliti e nella sorpresa di risentire il corno, pareva non si ricordassero che era un segno d'allarme, ma si domandarono soltanto se avevano sentito bene, se era di nuovo Sinforosa che girava per le strade col cavallino nano per avvertirli dei pericoli. A un tratto si scatenarono via dal frutteto, ma non fuggivano per fuggire, fuggivano per cercare lei, per raggiungerla. Solo Cosimo restò lì, il viso rosso come una fiamma. Ma appena ebbe visto correre i monelli e capito che andavano da lei, prese a spiccar salti sui rami, rischiando di rompersi il collo ad ogni passo. Viola era a una curva d'una strada in salita, ferma, una mano con le briglie posata sulla criniera del cavallino, l'altra che brandiva il frustino. Guardava di sotto in su questi ragazzi e si portava la punta del frustino alla bocca, mordicchiandolo. Il vestito era azzurro, il corno era dorato, appeso con una catenina al collo. I ragazzi si erano fermati tutti insieme e anche loro mordicchiavano susine o dita o cicatrici che avevano sulle mani o sulle braccia o lembi dei sacchi. E pian piano, dalle loro bocche mordicchianti, quasi costretti per vincere un disagio, non spinti da un vero sentimento, semmai desiderosi d'essere contraddetti, principiarono a dire frasi quasi senza voce, che suonavano in cadenza, come se cercassero di cantare. «Cosa sei venuta a fare, Sinforosa? Ora ritorni? Non sei più nostra compagna vigliacca?» Uno sfrascar sui rami, ed ecco, da un alto fico affaccia il capo Cosimo, tra foglie e foglie, ansando. Lei, di sotto in su, con quel frustino in bocca, guardava lui e loro appiattiti tutti nello stesso sguardo. Cosimo non resse. Ancora con la lingua fuori sbottò. «Sai che non sono mai sceso dagli alberi da allora?» Le imprese che si basano su di una tenacia interiore devono essere mute e oscure. Per poco uno le dichiari o se ne glori, tutto appare fatuo, senza senso o addirittura meschino. Così mio fratello, appena pronunciate quelle parole, non avrebbe mai voluto averle dette e non gli importava più niente di niente e gli venne addirittura voglia di scendere e farla finita. Tanto più quando Viola si tolse lentamente il frustino di bocca e disse con un tono gentile «Ah sì? Bravo Merlo!» Dalle bocche di quei pidocchiosi cominciò a muggire una risata prima ancora che si aprissero e scoppiassero in ululati a crepapancia e Cosimo lassù sul fico ebbe un tale soprassalto di rabbia che il fico, essendo di legno traditore, non resse. Un ramo si spaccò sotto i suoi piedi. Cosimo precipitò come una pietra. Cadde a braccia aperte, non si tenne. Fu quella l'unica volta, a dire il vero, durante il suo soggiorno sugli alberi di questa terra, che non ebbe la volontà e l'istinto di tenersi aggrappato. Se non che, un lembo di coda della Marsina gli si impigliò un ramo basso. Cosimo, a quattro spanne da terra, si ritrovò appeso per aria, con la testa in giù. Il sangue alla testa gli pareva spinto dalla stessa forza del rossore di vergogna. E il suo primo pensiero, sbarrando gli occhi all'incontrario e vedendo capovolti i ragazzi ululanti, ora presi da una generale furia di capriole, in cui ricomparivano a uno, tutti per il verso giusto, come aggrappati a una terra ribaltata sull'abisso, e la bambina bionda volante sul cavallino impennato, il suo pensiero fu soltanto che quella era stata la prima volta che lui aveva parlato del suo stare sugli alberi, e sarebbe stata anche l'ultima. Con un guizzo dei suoi, s'attaccò al ramo e si riportò a cavalcioni. Viola, ricondotto il cavallino alla calma, ora pareva non aver badato a nulla di ciò che era successo. Cosimo dimenticò all'istante il suo smarrimento. La bambina portò il corno alle labbra e levò la cupa nota dell'allarme. A quel suono i monelli, cui commentò più tardi Cosimo, la presenza di Viola metteva in corpo un'eccitazione stranita, come di lepri al chiar di luna, si lasciarono andare alla fuga. Si lasciarono andare così, come un istinto, pur sapendo che lei aveva fatto per gioco, e facendo anche loro per gioco, e correvano giù per la discesa, imitando il suono del corno, dietro a lei che galoppava sul cavallino dalle gambe corte. E andavano così alla cieca, giù a rotta di collo, che ogni tanto non se la trovavano più davanti. Aveva scartato, era corsa fuori strada, seminandoli lì. Per dove andare? Galoppava giù per gli oliveti che scendevano a valle, in uno smussato di gradar di prati, e cercava l'olivo sul quale in quel momento stava arrancando Cosimo. E gli faceva un giro intorno al galoppo e rifuggiva via. Poi di nuovo eccola al piede di un altro olivo, mentre tra le fronde s'appigliava mio fratello. E così, seguendo linee contorte come i rami degli olivi, scendevano insieme per la valle. I ladruncoli, quando se ne accorsero e videro la tresca di quei due di ramo in sella, tutti insieme principarono a fischiare, un fischio maligno di dileggio, e levando alto questo fischio s'allontanavano giù verso Porta Capperi. La bambina e mio fratello restarono soli a rincorrersi nell'oliveto. ma con delusione Cosimo notò che, sparita la marmaglia, l'allegria di Viola a quel gioco tendeva a sbiadire, come già stesse per cedere alla noia. E gli venne il sospetto che lei facesse tutto solo per far arrabbiare quegli altri, ma insieme anche la speranza che adesso facesse apposta per far arrabbiare lui. Quel che è certo è che aveva sempre bisogno di far arrabbiare qualcuno per farsi più preziosa. Tutti i sentimenti appena percepiti, questi, da Cosimo ragazzo. In realtà rampava per quelle ruvide cortecce senza capir nulla, come un allocco, immagino. Al giro d'un dosso, ecco si leva una minuta violenta sassaiola di Ghiaino. La bambina protegge il capo dietro il collo del cavallino e scappa. Mio fratello, su un gomito di ramo ben in vista, rimane sotto tiro. Ma i sassolini arrivano lassù troppo obliqui per far male, tranne qualcuno in fronte o nelle orecchie. Fischiano e ridono quegli scatenati, gridano «Sinforosa è una schifosa!» e scappano via. Ora i monelli sono arrivati a Porta Capperi, guarnita di cascate verdi di capperi giù per le mura. Dalle catapecchie intorno viene un gridio di madri. Ma questi sono bambini che la sera le madri non gridano per farli tornare, ma gridano perché sono tornati, perché vengono a cena a casa invece di andare a cercarsi da mangiare altrove. Attorno a Porta Capperi, in casupole e baracche d'assi, carrozzoni zoppicanti, tende, era assiepata la gente più povera d'Ombrosa, così povera da essere tenuta fuori dalle porte della città e lontana dalle campagne. Gente sciamata via da terre e paesi lontani, cacciata dalla carestia e dalla miseria che si espandeva in ogni stato. Era il tramonto e donne spettinate con bimbi al seno sventolavano fornelli fumosi e mendicanti si stendevano al fresco sbendando le piaghe, altri giocando ai dadi con rotti urli. I compagni della banda della frutta ora si mischiavano a quel fumo di frittura e a quegli alterchi, prendevano manrovesci dalle madri, s'azzuffavano tra loro rotolando nella polvere. E già i loro stracci avevano preso il colore di tutti gli altri stracci. E la loro allegria da uccelli, invischiata in quell'aggrumarsi umano, si sfaceva in una densa insulsaggine. Tanto che all'apparizione della bambina bionda al galoppo e di Cosimo sugli alberi intorno, alzarono appena gli occhi intimiditi. Si ritirarono in là, cercarono di perdersi tra il polverone e il fumo dei fornelli, come se tra loro si fosse d'improvviso alzato un muro. Tutto questo per loro due fu un momento, un girare d'occhi. Ora Viola si era lasciata alle spalle il fumo delle baracche, che si mischiava con l'ombra della sera, e gli strilli delle donne e dei bambini, e correva tra i pini della spiaggia. Là c'era il mare. Si sentiva rotolare nei sassi, era scuro. Un rotolio più sferragliante era il cavallino che correva sprizzando scintille contro i ciottoli. Da un basso pino contorto, mio fratello guardava l'ombra chiara della bambina bionda attraversare la spiaggia. Un'onda appena crestata si levò dal mare nero, si innalzò rimboccandosi. Ecco, veniva avanti tutta bianca, si rompeva e l'ombra del cavallo con la ragazzina l'aveva sfiorata a gran carriera e sul pino, a Cosimo, uno spruzzo bianco d'acqua salata bagnò il viso. Manuela Mandracchia ha letto Il barone rampante di Italo Calvino. Realizzazione tecnica di Carlo Cursi. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.